Sono di Prago, ma decidili di Prago. Io non faccio il rapper, mi stanno nominando. Ma prima o poi qualcuno ci si beve. Guardie mi cagano sempre il tasso per niente. Voglio restare libero come il vento, mi scalli con le fisse. Giacca con le zipper, coca e bollicine. Whisky e codina, lei mi fa stare zitto. Poi mi dice spinge, alieni dallo spazio, noi veniamo dalle scimmie. Sick sul beat, scappa come dinamite. Stacco in B, due beat, fanno schifo. G giudicano perché facciamo schifo. Doppio G, fibbio della cinta. DPG, figli di Shiva, danno in culo a te la tua fake figa. Questo è il giorno del giudizio, marcia la spark di vernice. Due Rolex, d'oro massiccio, trambi sul polso sinistro. Parlami di cash e pure zittati, fatto d'Orione, sempre Beverly Hills. Tutti quanti sono che siamo che li in giro. Devo alzare soldi come avessi quattro figli. Scarpe rase come l'Alligalli. Non voglio storie d'amore, questo non è Candy Candy. Alza soldi, butti soldi, spandili. Tutti soldi, spandili. Giro un blunt e faccio due diri. Sto attaccato alla strada come San Pedrino. Ho venduto l'anima come Bob Dylan. Sto giocando con la morte come Dylan Dog. Bling, blog, bling, blog, i matti malati. Lei non vuole fottere la caccia di casa. Cime di Gucci nel contenitore. Parec sul beat, fa contare il conto. Giri plastic nei blister. Nell'orbita come Sputnik. Baby, il diavolo esiste. Venga a rovinare il tuo picnic.